Bene, parliamo di visione. Dio ha una visione per la tua vita. Amen? Lo puoi confessare. Dio ha una visione per la mia vita. Ripeti con me. Dio ha una visione per la mia vita. Dio ha un destino per me. Dio ha segnato un percorso. Efesini 2, l'abbiamo già citato domenica scorsa, ci dice che siamo creati in Cristo Gesù. Siamo creature di Cristo. Creati, siamo stati creati in Cristo Gesù. Per fare cosa? Le opere che Lui ha precedentemente preparate per noi. Ci sono delle opere che Lui ha preparato per noi. C'è un percorso che Dio ha preparato per noi. C'è un destino, ci sono delle giornate da vivere davanti a noi che sono segnate. Dio vuole essere l'autore della nostra vita. Ci sono tanti speaker motivazionali, oratori motivazionali che ci incoraggiano ad essere autori della nostra vita. Ma con i tuoi sforzi, con il tuo impegno, con il tuo mettercela tutta, puoi essere l'autore di una vita molto e sempre limitata. Perché fin quando dipende dalle tue forze, la tua vita sarà limitata. Sei d'accordo con me? Ma nel momento in cui Cristo Gesù diventa l'autore della tua vita e Lui comincia a scrivere le tue giornate, la tua vita ha vero valore, ha vero senso. In quel momento cominci a vivere per cose che hanno un peso e hanno una ripercussione eterna di gloria, non solo terrena. Tu puoi lavorare per una bella casa, per una bella macchina, per una bella moto da regalare a qualcuno che ti fa i complimenti di averla, però non è nulla confronto a quello che sono tesori che fai per l'eternità nei cieli. Quindi noi quest'anno abbiamo visione per qualcosa che ha un peso e una ripercussione eterna, uno in più. Amen. Noi viviamo come chiesa per vedere uno in più, una persona in più salvata, una persona in più battezzata, una persona in più che diventa discepolo di Cristo Gesù. Siete d'accordo con me? Questo è il senso, il mandato che noi viviamo come chiesa. Se la chiesa non vive una missione, la chiesa muore. La chiesa diventa statica, la chiesa diventa religiosa, la chiesa diventa monotona, la chiesa non ha bisogno neanche della potenza dello Spirito Santo. Perché? Perché ci si riunisce per farsi compagnia, cantarsela, suonarsela, ascoltarsela fra di loro. Ma quando hai una missione, e quella missione è più grande di te, è lì che hai bisogno di una potenza maggiore, è lì che hai bisogno dell'intervento dello Spirito Santo. Ed è per questo che io voglio incoraggiarci come chiesa ad avere visione per questo nuovo anno e a comprendere che Dio ha una missione per noi. E quando vivi la missione, allora vivi anche la compagnia. Quando vivi la missione, vivi la vera compagnia di colui che ti manda in missione. Non sono io a dirlo. Nel grande mandato che noi conosciamo, che si trova in Matteo 28, capitolo 28, versetto 18 e 20, dopo aver dato il mandato, Gesù dice, aggiunge, ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Collega la sua presenza, collega la sua compagnia con i suoi discepoli, con noi che siamo suoi discepoli, al mandato che ci affida. Se noi viviamo il mandato, noi viviamo di più la presenza di Dio. Se non viviamo il mandato, non viviamo intensamente la presenza dello Spirito Santo. Perché vi ricordate che cosa dice Atti 1:8? In Atti 1:8 noi leggiamo: riceverete potenza quando lo Spirito scenderà su di voi e mi sarete testimoni. La compagnia, la presenza, il battesimo dello Spirito Santo è per uno scopo missiologico, per la missione che ci è data, per essere testimoni di Cristo in ogni parte del mondo. Quando tu vivi l'essere testimone, quando tu vivi l'essere missionario, quando tu vivi con un obiettivo, con uno scopo, con quell'uno in più davanti a te in ogni giorno, lì cominci a vivere la pienezza e la potenza dello Spirito Santo che fluisce attraverso di te. Perché lo Spirito Santo non ama essere in un cuore che è stagnante, in un lago chiuso, in una palude che è acqua chiusa, stagnante. Ma Lui ama essere in cuori che funzionano come un flusso. Vi ricordate che l'anno scorso abbiamo parlato del regno di Dio e del fatto che il regno di Dio funziona come un flusso. Benedetti, benediciamo. Salvati, portiamo salvezza. Arricchiti, siamo generosi nei confronti degli altri e arricchiamo. È un flusso, e quando questo flusso è pieno e noi non viviamo una vita statica, incentrata solo su di noi, egocentrica, lo Spirito Santo agisce con potenza. Amen. Vuoi vivere pienamente lo Spirito Santo in questo nuovo anno? Abbraccia la missione, abbraccia la visione che Dio ha per te. Amen. Ci piace questo. Uno in più. Uno in più non vuole essere solo. La visione che abbiamo globalmente come Chiesa, ok? Perché dietro una missione comune ci possiamo nascondere e possiamo rinunciare a quella che è una responsabilità e un mandato che Dio ci vuole offrire individualmente. Quando leggiamo uno in più, c'è da celebrare il fatto che noi come Chiesa vivremo questo nuovo anno per la salvezza anche di una sola persona, tutto quello che faremo in questo anno. Se dovesse essere fine alla salvezza di un animo, di un'anima, avrà senso e avrà valore. Siete d'accordo con me? Però c'è qualcosa di più che io vorrei che noi facessimo di questo claim. Prenderlo come responsabilità personale. Dio vuole darti il privilegio di vivere il 2020 dandoti l'opportunità di portare l'Evangelo a una persona in più. Dio vuole servirsi di te per raggiungere un'altra persona. Dio si vuole servire di te per annunciare l'Evangelo a un'altra persona. Dio si vuole servire di te per portare una persona che vive nelle tenebre alla sua luce. Non è glorioso questa? Non c'è cosa più bella che tu possa vivere. Non c'è cosa che più puoi celebrare nella tua vita se non aver portato a salvezza un'anima a Cristo. Quando andremo in cielo non ci saranno tante cose che potremo portare, anzi molte, molte poche, anzi niente, non ci possiamo portare niente, siete d'accordo con me? Alla luce di quanto leggiamo nella Bibbia, non possiamo portarci niente, c'è qualcosa che possiamo portarci, anime che strappiamo. Io prego che tu possa avere una persona in più da strappare quest'anno. Una persona in più, io voglio, è la mia preghiera, io sto cominciando a pregare, Signore dammi una persona quest'anno, dammi una persona, dammi un'anima. Ora io stamattina voglio portarvi a fare una confessione. Noi crediamo nella Bibbia, giusto? Noi crediamo che la parola di Dio, la Bibbia, è la fonte attendibile per attingere a tutta la verità, è la fonte attendibile che ci permette di conoscere chi è Dio, chi siamo noi, qual è il piano di salvezza che Dio ha per il mondo. Questo è il messaggio che ci viene comunicato continuamente nella parola di Dio, che è in Cristo Gesù che abbiamo la salvezza, che è in Cristo Gesù che c'è salvezza per questa terra. Non solo la parola di Dio è la fonte attendibile che ci mostra cosa avverrà nel futuro, come avverrà la fine di questo mondo, come, cosa ci attende dopo questa esistenza terrena. Siete d'accordo con me? E c'è potenza nella parola di Dio, non solo quando la leggiamo, ma quando la confessiamo per le nostre vite. Non so se è qualcosa che fai già nella tua vita, però stamattina io ti voglio portare a confessare la parola di Dio per te stesso, ad appropriartene in una maniera tale che definisce chi sei e quello che vivrai. Io voglio portarti a confessare due passi della Bibbia. Galati 2, versetto 20, e quello che voglio portarti a confessare è Romani 1, versetto 16. Io voglio che ciascuno di noi si appropri di questi passi, non per leggerli, perché leggiamo tanta parola, insegniamo tanta parola, però un conto è leggerla, un altro conto è appropriarsi e definirsi in base a quanto noi leggiamo, a quanto troviamo in questa serie di parole susseguite, messe in un ordine perfetto e ispirate da Dio direttamente. Quindi vuoi alzarti in piedi con me? E vorrei chiedere alla regia di proiettarci questo primo verso, Galati 2:20. Ve lo voglio leggere prima. E non voglio costringere nessuno a confessare queste parole, a meno che non è il vero, non è un vero tuo desiderio di vita. L'Apostolo Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Romani 1, al versetto 16, invece dice questo: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Amen. Ora io voglio invitare ciascuno di noi a chiudere i nostri occhi. E se questa mattina tu dici: io voglio che Dio sia realmente autore della mia vita, io voglio morire a me stesso, io voglio che Cristo scriva la sua storia attraverso la mia esistenza terrena, che Lui sia l'autore di ogni mio giorno, se questo è il tuo desiderio, non voglio costringerti a ripetere queste parole, ma se questo è il tuo desiderio, mentre tieni gli occhi chiusi e leggerò io frase per frase questi versi, io ti chiedo di ripeterli e confessarli quale verità per la tua vita. Ripeti con me se questo è il tuo desiderio: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo. Ripetilo ancora: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. Ripeti questo ancora. Manteniamo gli occhi chiusi. Questa è una confessione forte da fare. Questa è una confessione dove tu dici: io non voglio essere guidato dalla mia carne. Appunto, io muoio a me stesso. Io non sarò timido. Io non mi vergognerò dell'Evangelo. Io non mi farò condizionare da quello che le persone penseranno di me, io non mi farò condizionare dal rigetto che potrò avere in virtù dell'Evangelo, ma io non mi vergogno dell'Evangelo. Quindi ripetete con me: infatti non mi vergogno del Vangelo. Ripetilo ancora: non mi vergogno del Vangelo. Ripetilo ancora una volta: non mi vergogno del Vangelo. Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ripetilo ancora: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Amen, amen. Hai fatto una bellissima confessione stamattina. Meraviglioso. Possiamo accomodarci. Se questo è ciò che definisce la tua vita, tu non sei definito da quello che è il tuo stato d'animo, da quelle che sono le tue circostanze, da quella che può essere la tua vergogna. Lo Spirito Santo che ci è dato non è uno spirito di timidezza. Amen. Io credo che ci faccia molto bene stare così a cerchio, perché mette un po' in risalto quanto siamo a volte timidi, impacciati, ci preoccupiamo del fatto che davanti a noi ci possa essere qualcuno che ci vede. Questo condiziona il nostro alzare le nostre mani, il nostro inginocchiarci, il nostro urlare a Dio. A volte ci facciamo tanti problemi di quello che pensa gli altri, perché viviamo in una società dove ciò che dicono gli altri ha un peso enorme. Noi viviamo nell'epoca dei social, dove cerchiamo di mostrare la migliore versione di noi stessi a tutti. Perché? Perché tutti desideriamo essere amati, tutti desideriamo essere che altri siano attratti dalla nostra vita, da quello che viviamo. E quindi non mostriamo la nostra faccia appena svegli la mattina su Instagram, vero? Nessuno di noi fa la foto su Instagram, il proprio selfie, quando è nella condizione peggiore, no, ma quando il trucco è in ordine, quando il profilo è messo nel verso giusto e quando c'è quella giusta luce che riflette le giuste ombre e nasconde un po' di rughe. Chi ha le rughe dica amen. Io non mi vergogno delle rughe. Io non mi vergogno dei capelli bianchi. Io non mi vergogno di non averli affatto i capelli. Io vivo una vita nella sicurezza perché sono amato da Cristo e sono la sua immagine su questa terra. Io non mi vergogno perché la vergogna è accettare che altri condizionano la mia vita. Io sono condizionato da Dio. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Io non mi vergogno dell'Evangelo perché è attraverso l'Evangelo che le persone sono salvate. Non posso fare a meno di predicare l'Evangelo. Questo è quello che deve essere il nostro mandato. Io voglio darti tre passi questa mattina per adempiere in una maniera efficace il mandato di raggiungere una persona in più. Lo volete fare con me? Sono passi pratici, però molto efficaci. Cercare è il primo passo. Cercare. Gesù dice in Luca al capitolo 19 versetto 10, dopo che ha avuto quell'incontro con Zaccheo e ha riconosciuto che quest'uomo si è ravveduto, Gesù dice il figlio dell'uomo, chi è il figlio dell'uomo? Gesù sta parlando di se stesso. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare. I discepoli di Cristo sono chiamati a fare quello che Cristo ha fatto. La Chiesa è il corpo di Cristo perché svolge l'azione di Cristo. Anche se Cristo non è più presente carnalmente su questa terra, la Chiesa rappresenta Cristo carnalmente su questa terra e svolge le stesse azioni che 2000 anni fa Gesù ha svolto quando lui era presente su questa terra. Quindi se Gesù è venuto per cercare, la Chiesa oggi è chiamata a cercare. Io sono chiamato a cercare. Il mio mandato, il mio scopo per questo nuovo anno di vita è cercare. Ripeti con me, cercare. Cercare, cercare chi è perduto. Cercare. Leggete con me questi versi. In Luca capitolo 15, versetto 1 c'è scritto: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù è amico dei peccatori. Gesù è amico di prostitute, di pubblicani. Gesù mangia con loro. Questo è quello che i religiosi stanno dicendo. Guardate come risponde Gesù. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non l'ha ritrovata? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore, uno in più, per uno in più, per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una? La dramma era una moneta greca, che era del valore di quello che può essere la paga giornaliera di un operaio medio, la paga media di un operaio. Se ha 10 dramme, ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore, uno in più, che si ravvede. Gesù con queste storie sta dicendo che il pastore dà priorità alla pecora perduta. C'è una priorità che tu devi vivere nella tua vita, al di sopra di ogni altra cosa che tu possa vivere, al di sopra di ogni obiettivo che ti puoi porre per questo nuovo anno. C'è un obiettivo per il quale tu devi vivere ogni nuovo giorno in questo anno, ed è per cercare quello che Gesù sta cercando. e essere mosso dal cuore del Padre, perché il cuore del Padre è un cuore che è brama ricercare ciò che ha perduto. Tutti noi bramiamo trovare quello che perdiamo, vero? Vi capita mai di perdere qualcosa? L'altro giorno ero in un negozio e ho lasciato il mio cellulare in un camerino, e a un certo punto ero in fila verso la cassa e, visto che l'attesa era parecchio, ho pensato di prendere il mio cellulare e non lo trovavo, e evidentemente la mia faccia deve essere sbiancata e devo aver cominciato a muovermi in una maniera talmente agitata che l'addetto alla sicurezza mi ha visto, è venuto da me e ha detto: immagino che stai cercando il tuo cellulare. E io l'ho guardato e ho detto: immagini bene, ho io il tuo cellulare che hai lasciato in camerino. E io: il Signore ti benedica, ti ringrazio con tutto il cuore, ma chi ti ha mandato? OVS, tornerò da te a fare shopping ogni nuovo anno, già solo per questo gesto. Facciamo pubblicità. E merita, e dopo che ho ritrovato il cellulare non me l'hanno rubato, permettetemi. Non solo, vista l'attesa che ho avuto in cassa, una giornata benedetta, sono arrivato in cassa e il prodotto che avevo da acquistare a 20 euro me l'hanno scontato a 15 euro. Per l'attesa, 5 euro di attesa, al che gli ho detto, il cassiere così mi ha detto: per l'attesa ti tolgo altri 5 euro. Ho detto: se vuoi aspetto un'altra mezz'ora. Al che lui mi ha risposto: se aspetti un'ora vado a prelevare i soldi per te. Cercare, quando smarrisci qualcosa, la cerchi con preoccupazione, più preziosa questa cosa è. Più tu la cerchi in una maniera con tanta brama. E per Dio una persona è preziosa e Lui la sta cercando. La prima storia delle pecore ci parla di priorità. Una pecora vale più di 99. Non perché Dio non ama le 99, ma per farci capire il suo cuore è verso la pecora smarrita. La seconda storia, quella delle dramme, ci parla di quanto siamo preziosi agli occhi suoi, come una dramma perduta. Tu sei il risultato di uno in più che qualcuno ha cercato. Tu, se sei qui questa mattina, è perché qualcuno ti ha cercato. Gesù in primis, assolutamente, ma qualcuno è venuto da te a presentare, ad annunciare l'Evangelo. Ed è questo il motivo che ti ha portato a salvezza, perché Dio ha scelto di operare in questa maniera. Dio ha scelto di fare della Chiesa le sue mani, della Chiesa i suoi piedi, della Chiesa la sua bocca. Non bloccare il flusso. Quello che tu hai ricevuto, offrilo ad altri. Se il primo passo per un buon discepolato è cercare, il passo essenziale, il secondo passo è annunciare. Annunciare, fratelli e sorelle, ripetete con me: annunciare, annunciare, annunciare. Noi dobbiamo annunciare l'Evangelo. Noi dobbiamo annunciare l'Evangelo perché c'è scritto nella parola, c'è scritto in Romani. In Romani al capitolo 10, versetto 14: ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Noi non possiamo limitarci ad amare le persone. Non possiamo limitarci ad essere dei buoni credenti che danno una buona testimonianza con la loro buona condotta di vita. Noi dobbiamo annunciare, e questa parte richiede coraggio. Non possiamo avere timidezza. E quando annunci ti batte il cuore. Quando annunci sai che ti ritrovi davanti a un bivio. Quando annunci ti metti davanti alla possibilità di essere rigettato. Ed è per questo che io credo che molti di noi non annunciano mai. Perché si preoccupano di essere amati. Ma il compito dei discepoli di Cristo Gesù non è sentirsi amati da tutti, ma è amare tutti. E nell'amare tutti, persone ci odieranno. Non c'è gesto di amore più eccellente se non quello di condividere la tua fede ad altri, anche quando questa viene rifiutata. Stai offrendo l'opportunità a una persona di scegliere per Cristo. Dopo che noi abbiamo cercato e magari abbiamo individuato una persona, e questa persona la puoi individuare nella tua cerchia di conoscenze, di familiari, vicini di casa, la puoi cercare qui la domenica, ci sono spesso persone che vengono a trovarci per la prima volta. Dopo che tu hai individuato, e posso incoraggiarti a individuare una persona nuova in questo nuovo anno? Non continuare a cercare persone che vorresti tanto che siano salvate, ma rientrano in una cerchia di persone alle quali tu hai già offerto l'Evangelo e lo hanno rifiutato. Non sto dicendo che devi ignorarli, che li devi rigettare, che ti devi allontanare da loro, ma ti sto chiedendo di non rimanere fermo. Perché ci sono migliaia, milioni di persone che stanno attendendo il tuo cercarli e annunciare. Cerca una persona nuova, cerca uno sconosciuto, cerca qualcuno che incroci per strada, cerca qualcuno su Facebook, cerca qualcuno che ancora non conosci, cerca una persona nuova e poi annuncia l'Evangelo. Dopo che ti sei preso un caffè o un secondo caffè con loro, dopo averli invitati a casa, annuncia l'Evangelo. Il tuo obiettivo non è diventare il suo migliore amico, anzi il tuo essere il suo migliore amico sta nell'annunciare l'Evangelo, perché è lì che tu gli stai facendo il dono più prezioso. E dillo, dillo con apertura, in una maniera molto aperta, sincera. Dillo a quella persona che hai cercato, che hai incontrato, con la quale ti sei preso un caffè, di sai, la vera ragione per la quale io sto prendendo un caffè con te oggi è perché ho piacere di stare con te. Ma è ancora di più perché voglio offrirti l'opportunità di vivere quello che io sto vivendo, di offrirti l'opportunità di avere una relazione personale con Gesù. Non vendiamo religione, non vendere il tuo invito in chiesa. È buono che tu inviti in chiesa, ma annuncia l'Evangelo. Perché se tu inviti in chiesa, probabilmente il risultato che avrai è una persona che viene in chiesa. E non è detto che in quell'occasione gli sarà annunciato l'Evangelo con chiarezza, ma tu davanti a quel caffè hai l'opportunità di annunciare l'Evangelo. E che cos'è l'Evangelo se non riconciliare al Padre coloro che sono perduti? Vedete, il senso della ricerca della pecora, il senso della ricerca della dramma, il senso della ricerca del padre che scruta l'orizzonte per vedere quel figlio prodigo tornare a casa, perché sono tre storie consecutive, il senso della ricerca è la riconciliazione. Dio vuole che persone perdute, lontane da Lui, siano riconciliate a Lui in un rapporto personale. Questo è l'Evangelo, avere una relazione con Dio. È per questo che Gesù è venuto, per ripristinare una relazione con gli uomini, con coloro che accettano Cristo Gesù, il perdono dei loro peccati e avere un'intima relazione con Dio, personale. Non vendere religione, non vendere altro, annuncia l'Evangelo. E chiedi, vuoi riconciliarti al tuo padre? Vuoi sperimentare quello che sperimento io? Lo stai sperimentando tu, no? Tu sperimenti quello che è la benedizione più grande che un uomo possa vivere su questa terra. Avere una comunione diretta con il padre. Essere riconciliato al padre. Non c'è nulla che ti separa più dall'amore del padre, perché sei stato perdonato in Cristo Gesù. Questo che hai, questo è l'Evangelo. Questo che hai, annuncialo. Offrilo ad altri. Non offrire altro, offri l'opportunità ad altri di avere una relazione con Gesù. Annuncia l'Evangelo, amen? Annunciare dal dizionario è comunicare una notizia cui di solito si attribuisce notevole importanza. Questa notizia è la più importante di tutte, che Dio vuole una relazione con i suoi figli, che c'è un pastore che sta cercando la sua pecora disperatamente. Uno in più, fratelli, sorelle, uno in più. Preghiamo, lottiamo, cerchiamo e annunciamo l'Evangelo per avere uno in più. Annunciare prevede l'essere rigettati. Annunciare prevede anche l'essere odiati, è Gesù che lo dice. se hanno odiato me, odieranno anche voi. Annunciare, sì, può significare che qualcuno dice ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Annunciare significa che stai dicendo delle parole che sono pazzia per il mondo. Ma non è pericoloso per noi credenti preoccuparci troppo che le nostre parole possano passare per pazzia ed essere rifiutati, piuttosto che preoccuparci che non stiamo evangelizzando e annunciando l'Evangelo come conviene fare, perché è pazzia. Fratelli, sorelle, è solo lo Spirito Santo che porta salvezza. Non sarà il nostro saper usare le giuste parole, fare l'invito strategico, rimanere nascosti, amici, ma mai annunciare completamente che sono peccatori e hanno bisogno di riconciliarsi a Dio. È un errore quando noi non annunciamo il vero Vangelo. Annuncia Cristo come conviene fare. È la preghiera di Paolo che fa ai Colossesi. Marco 6, versetto 11. Gesù dice, se in qualche luogo non vi ricevono, né vi ascoltano, andando via scuotetevi la polvere dai piedi. Sapete cosa significa questo? Che non è una tua responsabilità la scelta che altri fanno. La tua responsabilità è annunciare. Rimane una loro responsabilità accettare o non accettare. E se non accettano non hai fallito, anzi. Il tuo successo sta nel fatto che hai dato l'opportunità a un'altra persona di ricevere Cristo nella propria vita. Non prendere quello come una sconfitta. La nostra vittoria non è solo quando una persona riceve Cristo, si battezza e comincia a seguirlo. La nostra vittoria sta già nel fatto che annunciamo Cristo Gesù come va annunciato alle persone. È già una vittoria. Vieni rifiutato, vieni rigettato. Non sei tu ad essere rifiutato e rigettato. È Cristo che è rifiutato e rigettato e avviene costantemente. Ma a noi è dato di offrire ancora opportunità a nuove persone, cercare la smarrita e salvarla. Terzo passo, dopo aver cercato, dopo aver annunciato, nel momento in cui una persona sceglie per Cristo, comincia a venire in chiesa, fa la scelta di battezzarsi, in tutto il percorso che precede il battesimo e nel percorso che segue il battesimo, il Signore ci invita ad accompagnare. Se il primo passo è cercare, il secondo è annunciare, il terzo è accompagnare. Che cosa voglio dire con questo? Beh, ha senso leggendo il mandato di Gesù. Gesù dice, andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi, aggiunge, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Sapete, nella Chiesa c'è un'emorragia. Perché ci preoccupiamo di evangelizzare, portare a conversione le persone e magari anche battezzarle, ma poi le trascuriamo e queste si perdono. Perché hanno bisogno qualcuno che le adotti e che insegni loro ad osservare le cose che Cristo ha comandato di fare. Persone hanno bisogno di te. Adotta una persona. In quest'anno, se quella persona alla quale hai annunciato accetta Gesù e poi si battezza, non trascurarla. È compito tuo fare discepoli. Non è compito della Chiesa in generale, non è il compito del pastore o dei ministri, non è il compito del capogruppo, è compito tuo e mio individualmente prenderci responsabilità su un'anima e fare discepoli. Seguire quella persona affinché quella persona diventi un cristiano maturo, dipendente completamente nel suo rapporto a Cristo, che osservi le cose che Cristo ha domandato. Quanto dura questo percorso? Tanto, tanto. E non c'è cosa più bella da poter vivere che accompagnare quella persona fino a vederla stabile, ben radicata in Cristo, irremovibile perché ha costruito la sua casa sulla roccia e vederla prosperare, andare avanti in Cristo e vivere il percorso che Dio ha stabilito per lei, per lui. A questo Dio ci chiama in questo nuovo anno. È un bel obiettivo, vero? È un obiettivo glorioso. Pensate se tutti noi già solo annunciassimo l'Evangelo a un'altra persona. Raggiungeremmo come Chiesa altre 200 persone o 300 persone. Daremmo l'opportunità ad altre 300 persone di vivere relazione con Cristo. Questo è il mandato per il quale vale la pena vivere e morire. Io voglio chiederti di alzarti in piedi dove ti trovi e voglio pregare insieme a te. So che mi sono un po' dilungato, so che ho preso un po' più del tempo necessario, però era importante per me. E durante l'arco di questo anno daremo alla Chiesa quanto più equipaggiamento possibile per adempiere a questo mandato. Avremo un training specifico per essere abili nel fare discepoli e vogliamo lottare uno a fianco all'altro, perché è una sfida che prendiamo insieme, l'uno al fianco all'altro affinché ciascuno di noi abbia un discepolo quest'anno. Ti piace? Se è quello che desideri con me, ti chiedo di alzare le tue mani, voglio pregare per quello che ci sta davanti. Pare che sia un anno fruttuoso, che sia un anno per la tua gloria, che sia un anno dove la Chiesa Pieno Vangelo di Modugno possa inseguire e cercare quello che tu stai inseguendo, cercando e bramando. Padre, io voglio pregare per tutte quelle persone che tu vuoi raggiungere attraverso di noi. In modo particolare io voglio pregarti per l'annunciare. Padre, la nostra timidezza che sia messa a morte. Il nostro imbarazzo, la nostra incapacità di dire le giuste parole, che sia messo tutto da parte, perché vogliamo essere franchi come i tuoi discepoli erano franchi. Vogliamo essere aperti, liberi, vogliamo essere schietti, sinceri, vogliamo essere diretti, perché non c'è tempo da perdere, perché non vogliamo perdere tempo, non sappiamo quanto tempo ci rimane. E io voglio pregare, Padre, che ciascuno di noi possa quest'anno conquistare la propria franchezza e la sicurezza di testimoniare, annunciare l'Evangelo tuo ad un'altra persona. Uno in più, Padre, facci raggiungere uno in più. Lo prego per ciascuno di noi, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia.